addosso, signor mio col basti indosso, alla fedia mia di fede, e mi credo che ne far, a Taddeo, quant'era meglio che tu andassi in fondo al mare. Grazie, quanti thank you. Senza di lei, andate e conducetela. Senti, Caimacane, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei. A Taddeo de Taddei, a quel cimento, a quel passo sei giunto. Ma che fa questa bella? Eccola, appunto. Presento di mia mano Ser Taddeo Caimacane. Ti presento Ser Taddeo Caimacane. Faccio credi quanta stima di te pace musa fa. Faccio apprendi quanta stima dite faccia musa fa. Vai matare la metta costa il tuo muso fatto apposta. Cai matare a metta costa il tuo muso è fatto apposta. Osservate, osservate, Sì. Viva! Ci siamo. Oh. Sì. Creta, creta. Sì, sì. Al soldo. Maledetto quel balordo. Non intende ancor pista. Questa armonia finché scoppia. Non mi muovo via di qua. Maledetto quel balordo. Non intende ancor pista. Nelle vene un poco più non mi so frenar, no, non mi so frenar, no, non mi so frenar. Se tu Sit,

baci. Mamma taci, che mai sento? Mamma taci, che mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia, mamma taci. Che vuol poi significar? Accomoda coloro che mai non sanno disgustarsi col ben stesso. Thank you.

cancelliere fanno conoscere e di bombare. Nin-nin-dan-videre, stoppen-schiappar. Nin-nin-dan-videre, stoppen-schiappar. Frate carissimi, fra voi son lieto di incarmeni. Mostafa, Mostafa, Oh! 的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。